GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Affrontare l'emergenza energetica con l'innovazione, a dirlo il direttore di Snam Venier. Porto digitale, da lunedì a Trieste i mezzi pesanti prenoteranno gli ingressi via internet. Renzo Oliva, nuovo segretario regionale PD, serve alleanze, afferma in vista del voto regionale. Calcio, Udinese a Cremona, fanalino di coda in classifica, non sottovalutiamoli, dice l'allenatore Sottil. Basket a due, impresa Gesteco Cividale, i Ducali battono la Fortitudo Bologna per 76-71. 8:31 minuti di domenica 30 ottobre, buongiorno da Maria Spezia e Rita Micoli. Subito uno sguardo al meteo: il cielo è sereno, poco nuvoloso sulla regione. Alle 8 c'erano 15 gradi e mezzo a Trieste, a Udine 13 gradi e 5 decimi, a Gorizia 11 gradi e mezzo, a Pordenone 11, a Forni di Sopra 16 gradi, a Tolmezzo 14 gradi e 5 decimi, sul Piancavallo 12 gradi, a Tarvisio 8, a Sappada 7 gradi e mezzo. Su Monte Lusaria e Monte Zoncolan 15 gradi, a Grado 14 gradi, a Lignano 15 e 5 decimi, temperatura del mare 19 gradi. Le previsioni a cura dell'ARPA: oggi cielo in genere sereno, possibili solo lievi velature ad alta quota, rimarrà ancora piuttosto caldo per il periodo, specialmente in pianura e in quota. Nelle ore notturne possibili locali foschie e qualche banco di nebbia sulla bassa pianura, specie nel Pordenonese, sulla costa venti deboli a regime di brezza. E stanotte è tornata in vigore l'ora solare. Se non l'avete ancora fatto, vi ricordiamo di mettere gli orologi indietro di un'ora. L'ora solare rimarrà in vigore fino al 26 marzo del 2023. Per gestire il caro energia ora serve una strategia di medio periodo basata su ricerca e infrastrutture. A dirlo ieri dal MIB, la Scuola Postuniversitaria di Economia di Trieste, l'amministratore delegato di Snam, Stefano Venier. Se per quest'inverno le forniture di gas, salvo imprevisti, sono assicurate, nel medio periodo, per non ritrovarsi più in una situazione di emergenza, occorre lavorare su due fronti: infrastrutture e transizione energetica. Lo ha spiegato a Trieste Stefano Venier, amministratore delegato di Snam, intervenuto alla cerimonia dei diplomi della prima edizione del Master in Business Innovation della MIB School of Management. Queste settimane stiamo vedendo dei prezzi che sono scesi particolarmente ed è frutto ovviamente di un clima più caldo, ma anche e soprattutto del fatto che si sono riempiti gli stoccaggi fino al massimo livello possibile. È chiaro che l'innovazione è una delle leve essenziali anche per quanto riguarda tutto il tema della transizione energetica. La transizione energetica al 2050 la faremo se saremo in grado di essere innovativi, di studiare nuove soluzioni. Non riusciremo certamente a farla con le tecnologie che conosciamo oggi. In questo senso, un concetto chiave è proprio l'innovazione, che dà il nome al Master della MIB. Al corso, di alta specializzazione e vocazione internazionale, hanno partecipato 27 studenti, arrivati, oltre che dal nostro paese, da Nigeria, Iran ed Egitto. Trieste, Daniele Lettig, TGR Friuli Venezia Giulia. Cambiano le regole per l'accesso al porto di Trieste da parte dei mezzi pesanti, servirà un preavviso informatico. Da lunedì i mezzi pesanti che trasportano merce potranno entrare nel porto di Trieste solamente se avranno compilato un preavviso di arrivo. È quanto prevede la nuova procedura digitalizzata, introdotta dall'autorità portuale. L'obiettivo è quello di evitare la formazione di ingorghi stradali in prossimità delle aree del porto, di accelerare il transito ai gate e di ridurre i tempi necessari per espletare le formalità doganali, rendendo così più competitivo lo scalo. In questa prima fase, però, la nuova soluzione potrebbe portare alcune criticità sul fronte del traffico. Vittorio Torbianelli, segretario generale dell'autorità portuale. Tempi di transito inferiori e semplicità nella gestione dei documenti. Quindi il porto di Trieste diventerà più attrattivo. Certamente il passaggio dal mondo della carta al mondo del digitale ha dei momenti che vanno gestiti come questo, ma è un passaggio epocale. Il debutto della nuova soluzione potrà comportare alcune criticità. Qualche camion che si presenterà senza aver completato in modo corretto tutta la procedura, che dovrà essere probabilmente portato in qualche area buffer per effettuare il miglioramento, diciamo, dell'inserimento dei dati. Lara Zani, TGR Friuli Venezia Giulia. Il Partito Democratico del Friuli Venezia Giulia ha un nuovo segretario. Renzo Oliva è stato eletto ieri a Palmanova. Primo obiettivo per il neosegretario: costruire alleanze in vista del voto regionale del prossimo anno. Non si sente un traghettatore, ma un segretario nel pieno delle sue responsabilità. Renzo Liva, 68 anni, è stato eletto nuovo segretario regionale del Partito Democratico, scelto dai 103 delegati regionali convenuti ieri a Palmanova, in presenza dell'ex governatrice Deborah Serracchiani. Un'elezione rapida con una vittoria netta, 45 voti su 79, mentre la sua avversaria, la consigliera regionale Chiara Dajau, si è fermata a 33. Liva, responsabile economico del PD regionale e con un passato da sindaco di Roveredo sul Piano, raccoglie il testimone di Cristiano Sciaurli, che si era dimesso da segretario regionale del PD a inizio ottobre. È consapevole, spiega, delle difficoltà a cui andrà incontro. Non sarà una marcia trionfale, ha dichiarato nel suo discorso di ringraziamento, ma ha anche chiamato il partito all'unità considerando l'impegno delle prossime elezioni regionali nel 2023. Qui progetta di costruire una coalizione antifedriga. Udine, Dario Ronzoni, TGR Friuli Venezia Giulia. E il sindaco di Duino Aurisina, Igor Gabrovez, ha dato mandato ad un legale affinché venga formalizzato un esposto contro ignoti per scoprire gli autori dell'enorme fascio littorio dipinto sulla parete di una cava dismessa tra Silvia e San Pelagio sul Carso Triestino, notato già nella giornata di venerdì da diverse persone quando era il 100° anniversario della marcia su Roma. Ben visibile dal raccordo autostradale, il fascio, alto alcuni metri, era tracciato all'interno di un tricolore racchiuso in un cerchio. Già ieri il disegno inneggiato al fascismo è stato coperto con vernice gialla e bianca. Secondo Gabrovez si ravvisano la violazione della legge Scelba per quel che riguarda l'apologia del fascismo, oltre all'imbrattamento. Nella notte precedente era stata segnalata la presenza nei pressi della cava di una decina di giovani. Uno di loro indossava un passamontagna e teneva in mano un bastone. La cronaca: grave incidente a Osopo poco dopo la mezzanotte, in cui una giovane ha perso il controllo dell'auto e si è schiantata contro un muro in via Volontari della Libertà, trasportata dall'elisoccorso a Udine. Non sarebbe in pericolo di vita. Restano gravi le condizioni dell'uomo rimasto ferito ieri alla foce del Tagliamento dopo essere finito con il suo natante contro una bricola. Lesioni severe anche per una settantenne che in sella a una bicicletta è stata travolta ieri da un'auto a Grado e è stata portata in elicottero a Udine. Parliamo ora della fiera dedicata ai matrimoni di Udine, il settore ormai pienamente ripartito. Circa 4.000 microaziende nella nostra regione, un esercito di piccoli imprenditori e commercianti che però muove un indotto di più di 100 milioni di euro all'anno, con forti ripercussioni anche nel turismo. E il mondo del wedding in Friuli Venezia Giulia, che dopo il periodo del Covid è rinato a nuova vita. Un mondo che presenta la fiera di Udine per la 19ª edizione di Sposo e Sposa. Circa 100 espositori tra atelier, location, ristoranti, fotografi, passando per il mondo del beauty, l'intrattenimento e i viaggi. Il Covid sicuramente ha creato una rottura fra il prima e il dopo. Le coppie hanno sempre voglia di sposarsi sicuramente, sono più grandi, non ci sono più tanti ragazzi, le coppie sono cresciute d'età e di conseguenza è cambiato proprio il mercato, sta cambiando il mercato legato al wedding. E soprattutto ci sono tante aziende giovani che si stanno lanciando su questo mercato con una dose di creatività che fa bene anche a tutto questo. Udine, Giovanni Taormina, TGR Friuli Venezia Giulia. Trekking, degustazioni e visite ai frantoi sono gli appuntamenti proposti dalla 6ª edizione della Camminata tra gli Olivi. 4 gli eventi in regione: Aduino Aurisina, Muggia, San Donlego della Valle, Trieste. Con Antonio Valenzano, direttore Associazione Nazionale Città dell'Olio, abbiamo parlato del fenomeno dell'abbandono degli oliveti in Italia. L'oliveta in Italia, che ha una diffusione abbastanza ampia, è una delle colture più importanti, ovviamente vive in questo periodo anche un stato di abbandono, nel senso che i dati sono che circa il 30% delle olivette italiane sono abbandonate. Questo ovviamente è un dramma incredibile, riguarda, va contro, diciamo, sia la nostra identità, la nostra cultura, è un cancellare la nostra storia in qualche modo, oltre al fatto che ovviamente è un problema a livello produttivo, insomma noi siamo paesi dove la produzione non soddisfa quella che è la domanda interna, quindi abbiamo necessità anche di produrre. Certo, le aree, come dire, di produzione abbandonate sono aree, se vuoi, anche un po' impervie, ma sono fortemente importanti perché hanno un valore ambientale incredibile. possibile perché mantengono i terreni dal punto di vista del rischio idrogeologico, ma soprattutto hanno un completamento di biodiversità che è unica al mondo e che è rappresentata da questa cultura, da questi alberi, che danno quindi anche, come dire, un prodotto unico e irripetibile in altri luoghi. Allora, questo patrimonio va salvaguardato. E siamo allo sport, il calcio. L'Udinese è impegnata questo pomeriggio alle 15 sul campo della Cremonese per gli uomini di Sottil. È l'occasione di riprendere il cammino interrotto dai pareggi con Lazio e Atalanta e soprattutto dalla sconfitta con il Toro. Gli avversari sono ultimi in classifica. Il mister predica comunque concentrazione e intensità. È stata una settimana all'insegna del duro lavoro, come tutte le altre da quando abbiamo iniziato il nostro percorso, il nostro campionato. Tutti quanti determinati, concentrati nella settimana, nell'affrontare tutti i giorni gli allenamenti e cercare di migliorarsi sempre. Quindi a livello fisico, a livello psicologico, ho visto un'ottima settimana. Siamo sereni, lucidi, consapevoli di quello che dobbiamo fare. Quindi l'aspetto mentale, che per me conta molto, domani deve essere al centro, il centro della strategia della partita. Stare bene in campo, leggere le situazioni e avere un'alta concentrazione, quindi vuol dire avere la mente veramente lucida per essere per 100 minuti sempre dentro la partita. In Serie C il Pordenone è impegnato alle 14.30 a Crema in Lombardia contro la Pergolettese. I neroverdi, che hanno perso l'ultima partita in casa contro la Feralpi, devono ritrovare rapidamente il ritmo giusto. Assoluto bisogno di punti è invece la Triestina, dopo che una serie di 4 sconfitte di fila ha spinto gli alabardati al terzultimo posto. L'occasione è la sfida interna con il Mantova. Anche a Rocco si comincia alle 14.30. Basket a 2 è arrivato subito il riscatto per la Gestecco Cividale dopo il KO contro Pistoia sul parquet di casa. Gli uomini di Pillastrini hanno battuto la Fortitudo Bologna per 76-71, vittoria più che meritata per i Ducali contro una delle formazioni più blasonate della pallacanestro italiana. Oggi nel massimo campionato Trieste in trasferta a Napoli alle 20, in A2 alle 18 Udine sul parquet di Rimini. In Serie B Monfalcone è stata sconfitta a Vicenza 66-55, in A2 donne la Del Serapo Woman Udine ha battuto Verona per 65-42. La pallavolo, Tinet Prata sconfitta in casa dal quotato Vibo Valencia per 3-1, i parziali 18-25, 25-19, 19-25, 19-25. In campo nel pomeriggio le regionali della 2 donne, Itas Ceccarelli a Martignacco contro Asitec Sant'Elia, CDA Talmassons a Vicenza, inizia alle 17. Per la pallamano non si ferma la marcia dei biancorossi. Trieste ha battuto Oriago 23-12 al Palacchiarbola, collezionando il 6° successo di fila. Il consiglio direttivo ieri ha eletto il nuovo presidente dopo le dimissioni di Alessandra Orlich. È stato eletto Michele Semacchi, già vicepresidente in carica. La Corsa del Ricordo, manifestazione podistica oggi a Trieste con arrivo e partenza alla foiba di Basovizza, intesa a ricordare i tragici eventi che colpirono la Venezia Giulia e la Dalmazia con lo strumento aggregativo dello sport. L'avvio della gara è alle 9.30, ce ne parla Paris Lippi, consigliere ASI, Associazioni Sportive e Sociali Italiane. La Corsa del Ricordo nasce a Roma, nel quartiere Trieste, che è il quartiere dei profughi giuliano-dalmati. E indicativamente 9 anni fa c'è stata la prima edizione ed è ripetuta annualmente. Subito dopo è stato detto, comunque Trieste è la città simbolo, non può essere che lo facciamo a Roma e a Trieste no. E quindi come tali ci siamo giunti anche noi. Adesso è venuto fuori che anche Milano ha espresso il desiderio di farlo, è San Vito dei Normanni in provincia di Brindisi. Adesso abbiamo 4 appuntamenti in simultanea. Un tracciato di 9 chilometri, 2 giri su sterrato, direi che è una cosa abbastanza accessibile a tutti. Sì, infatti ci sono 2 giri per la corsa competitiva e poi c'è anche la family, quindi le famiglie che non hanno voglia di cimentarsi in un'impresa sportiva ardua, faranno un giro 4,5 chilometri nel Bosco Bazzoni, dove c'è anche il centro documentale della Lega Nazionale. E seconda edizione per la Slalom Trieste, manifestazione di prova all'abilità di guida su un tratto dello storico tracciato della Trieste Opicina. Oggi prove alle 9, poi le 3 manche di gara. La manifestazione sarà accessibile anche negli spazi dell'Università, in Piazzale Europa, fino alle 20. Sospesa la circolazione nel percorso per il tempo necessario al passaggio dei veicoli. 8.45, la rassegna stampa sul Messaggero Veneto. Caro bollette in apertura, come difendersi dai cambi di tariffe di luce e gas? Già migliaia le lettere di diffida. Nelle fotonotizie delle due edizioni il tutto esaurito negli alberghi di Lignano, dove però non ci sono più ombrelloni, e a Pordenone la catena umana per le donne dell'Iran. Rafforzati i controlli della polizia nei parchi, tema che apre la cronaca di Pordenone. Poi la frode milionaria sulla manodopera scoperta dalla finanza di Olbia, c'è anche un pordenonese indagato. Titoli anche per l'incidente in mare tra Lignano e Bibione, per l'incendio partito da una lavastoviglie che ha costretto ieri a sgomberare una palazzina a Codroipo, poi la raffica di Fulti nel Manzanese, e apre le pagine cittadine di Udine lo scontro politico sulla sicurezza in città. L'edizione di Trieste del Piccolo riserva l'apertura e due pagine interne alla conferma, che ha detto del quotidiano e ufficiale, del blocco dei fondi del PNRR previsti per la sede triestina della Wärtsilä, la multinazionale finlandese di sistemi di propulsione ed energia a uso marino, intenzionata a chiudere il sito produttivo giuliano. 34 milioni di euro in gioco, l'iniziativa è attribuita al leghista Giorgetti, già ministro dello sviluppo economico, che avrebbe deciso di bloccare la richiesta arrivata 2 mesi prima dell'annuncio aziendale di licenziamento dei 450 addetti. Capocronaca interno, i dati sulle truffe a Trieste di Federconsumatori decuplicate rispetto agli ultimi anni. L'edizione di Gorizia del Piccolo informa sullo stanziamento di 5 milioni di euro regionali per demolire l'ex ospedale civile di via Vittorio Veneto e costruire le nuove sedi dei licei Slata per i Galilei. Altro servizio, quello sulle 1.400 famiglie dell'Isontino che riceveranno i fondi della ex provincia per pagare affitti troppo alti rispetto alla propria situazione economica. Sulle due edizioni del Gazzettino l'apertura è sempre per la sanità, medici a gettone, guerra in corso sulle retribuzioni 5 volte più elevate dei colleghi di ruolo. Fotonotizie, se qua sgemona si riparte sulla viabilità pedemontana, e poi Villa Cattaneo Pordenone svolta con il progetto per trasferirvi la sede di un centro di ricerca. Spazio alle truffe, quella scoperta in Sardegna, malamente pordenonese, quelle agli anziani. A Pordenone poi non si spegne la polemica comune Ampi, noi fascisti, dice il sindaco Ciriani, scuse o non sarò al 25 aprile. A Udine ancora le reazioni ai dubbi del sindaco Fontanini su una possibile ricandidatura. Segnaliamo ora alcuni appuntamenti culturali odierni. Comincia la rassegna dei concerti cividalesi che tornano dopo 2 anni di assenza forzata. Appuntamento di apertura con l'ensemble Tartini, che proporrà musiche del compositore di Pirano e di Johann Sebastian Bach. Appuntamento alle 18.30 nella chiesa di Santa Maria dei Battuti. E musiche di Bach e di altri compositori barocchi anche alla chiesa luterana di Largo Panfili a Trieste alle 17. Musica contemporanea per la pace alla Basilica di Aquileia, verrà eseguita la messa del compositore friulano Walter Poles alle 20.30. Fisarmonica protagonista a Pordenone all'Auditorium Concordia alle 18. Renzo Ruggeri rivisiterà le partiture di Tosca, della Traviata e del Barbiere di Siviglia, e anche a Tarcento con il giovane virtuoso campione del mondo Petar Maric alle 18.30 in Sala Margherita. Teatro di marionette di valore assoluto al Teatro Comunale di Zoppola. Arriva Teodor Borisov, esponente della Grande Scuola Bulgara, alle 16.30. Ultimi giorni di attività per il passo barca attivo tra Lignano, Sabbiadoro e Bibione, attraversando il Tagliamento fino a martedì. Primo viaggio da Lignano alle 9.30, ultima corsa dalla zona del faro di Bibione alle 17.30. A Trieste, per interventi di manutenzione dei pannelli a messaggio variabile, oggi fino alle 19 sarà interdetta la circolazione della galleria Monte d'Oro per chi viaggia in direzione Slovenia. Ora i programmi della nostra sede in radio in occasione del centenario della nascita di Elio Bartolini e di Ugo Amodeo alle 9.15, stazione di posta, una sosta amorosa di Benvenuto Cellini. In televisione su Rai 3 a partire dalle 9.15, Lynx Magazine. Ed è tutto per questa prima edizione domenicale del giornale radio regionale. In regia Carlo Morello, in segreteria Manuel Bussani. Da Maria Spezia e Rita Micoli, grazie per l'ascolto e l'augurio di una buona giornata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.